30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, nella sua prima visita a Città del Messico, ha offerto al suo omologo Felipe Calderón il pieno sostegno del suo paese nella sanguinosa guerra ai narcotrafficanti. Dal 2006 Calderón ha mobilitato 36.000 soldati e poliziotti contro i cartelli della droga, cosa che ha provocato una violenta reazione dei trafficanti che solo nel 2008 ha prodotto oltre 5.800 morti. L'emergenza riguarda da vicino gli Stati Uniti, mercato di esportazione della droga messicana. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. Oggi dunque ci soffermiamo sulla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico. È una frontiera lunghissima, una frontiera di terra al centro della quale c'è una città che si chiama Ciudad Juárez. Ciudad Juárez è stata fondata con il nome di El Paso del Nord, il Passo del Nord dunque, nel 1659. Esploratori spagnoli cercavano un percorso attraverso le montagne rocciose. Una città che si è sviluppata dunque sulla sponda meridionale del Rio Grande, una città che oggi ha quasi 1.200.000 abitanti. Ciudad Juárez è un luogo di confine, un luogo di violenza, ma è anche la città simbolo di un traffico da 40 miliardi l'anno. Traffico di droga, violenza crescente, una sequenza di morte che ha generato dei dati impressionanti che avete sentito poco fa. Insomma, la storia di questa frontiera che va da Tijuana, El Paso, da Laredo a Rio Grande, che corre poi verso il Golfo del Messico, è la storia della frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, un viaggio di 3.140 chilometri che spacca in due il continente. Al centro di questa lunghissima frontiera, abbiamo detto, c'è questa città, la città di Ciudad Juárez, e da lì partiamo questa sera con Roberto Darin, corrispondente dall'America Latina del Sole 24 Ore, che in quella città è stato per realizzare un reportage. Innanzitutto buonasera Roberto. Buonasera a voi. Allora, che città è Ciudad Juárez? È una città che sorge in mezzo a un deserto arido, che è quello messicano della regione di Chihuahua, che confina con il Texas, quindi è una città di confine. Dall'altra parte, in Texas, si arriva attraversando un ponte in 2 minuti, e la città del Texas, la città gemella, si chiama El Paso. Ciudad Juárez è una città molto brutta, una macchia bianca e grigia in mezzo al deserto, di case basse, spesso semi diroccate appena fuori dal centro della città, che per la verità non si distingue moltissimo dalla periferia se non per la grandezza delle due vie principali. Ed è un posto surreale. Dall'aeroporto alla città ci sono dei cartelli grandi che la Chiesa Cattolica ha fatto affiggere, delle mani giunte, e poi il volto di Gesù, la scritta è Oremos por Ciudad Juárez, preghiamo per la città, lo necessitamos, ne abbiamo bisogno. È una città dove la violenza ha prodotto un numero di morti inimmaginabili, ed è un posto ovviamente dove ci sono anche altri traffici, dove ci sono anche delle persone che lavorano normalmente, però l'economia di Ciudad Juárez è l'economia della droga. Ecco, a Ciudad Juárez torneremo tra poco, ma ho chiesto a Roberto Darin di introdurci questo luogo, perché questo luogo di fatto diventa il luogo simbolico che addirittura trascende quelle che sono i tradizionali rapporti bilaterali tra due nazioni importanti come gli Stati Uniti e il Messico. Allora, torniamo al viaggio di Obama, al primo viaggio di Obama in Messico, e sentiamo un breve contributo. Sin duda alguna, la presencia de Obama en México será importante, fundamental para normalizar las relaciones entre ambos países y quitar esa carga de tensión que se ha venido acumulando durante los últimos días a raíz de una serie de declaraciones de distintos funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos, en torno al tema della seconda. Normalizzazione dei rapporti, tensione, sicurezza. Insomma, un collega di una televisione messicana sintetizza in questo modo il senso della visita di Obama. Ma innanzitutto, di quale tensione parla? Parla di una tensione tra due paesi che è diventata insostenibile, perché un'emergenza come quella del narcotraffico in Messico ha creato per la prima volta da molti anni a questa parte un conflitto aperto con gli Stati Uniti, in cui il presidente Felipe Calderón ha chiesto esplicitamente di risolvere congiuntamente questa situazione, o quantomeno di affrontarla insieme. Perché? Perché naturalmente il Messico è il mercato di produzione, è l'offerta, ma gli Stati Uniti rappresentano il mercato della domanda. Quindi la tesi di Calderón, del presidente messicano Felipe Calderón, è che non si possa combattere questa guerra, perché è diventata una guerra, 10.000 morti in 2-3 anni. Più di 5.000, come hai ricordato tu nella scheda, solo nel 2008. Quindi questa guerra si può combattere solo in modo congiunto, cercando di sciogliere dei nodi che si sono formati tra i narcos e di qua e di là dalla frontiera. Ecco, noi siamo abituati a ragionare in termini di ingerenza, o spesso diciamo della retorica dell'ingerenza degli Stati Uniti nei confronti dei paesi confinanti, in particolare del Canada e del Messico. In questo caso tu ci stai dicendo, si ribalta il concetto, è il presidente messicano che in qualche modo pretende, alza la voce, perché questo problema non può più rimanere una questione di sicurezza interna del paese. Esattamente, sì, perché per il Messico è diventata, come dicevamo, un'emergenza nazionale. Nei giornali ogni giorno, nei giornali messicani, ci sono dei bollettini di guerra che danno conto delle vicende dei narcos, e nonostante tra Stati Uniti e Messico ci siano delle relazioni profonde che sono intrecciate, molti capitoli aperti, l'immigrazione, il commercio, i diritti umani, la sicurezza, quello del narcotraffico è diventato negli ultimi 2 anni il problema per antonomasia, il problema che deve essere risolto, il problema per il quale Calderón chiede esplicitamente aiuto agli Stati Uniti, perché non, da solo non ce la fa. Questo, ecco, ma cosa si aspetta dagli Stati Uniti? Lui l'ha dichiarato apertamente in un'intervista alla BBC pochi giorni fa, ha detto non ce la faccio da solo, 90% delle armi dei cartelli messicani che controllano il mercato della droga è comperato negli Stati Uniti, quindi il 90% delle armi viene prodotto e venduto negli stati confinanti, quindi Texas e Arizona, ai narcotrafficanti messicani, e una percentuale analoga, forse superiore, della droga prodotta dal Messico e venduta negli Stati Uniti. Quindi insomma il problema è palesemente duplice e intrecciato. Senza l'ausilio di una task force americana che possa condividere ad esempio le informazioni, l'intelligence, alcuni apparati di sicurezza, non è possibile risolvere questo quadro. Ecco, da un lato è sorprendente che tutto questo avvenga lungo una frontiera che è al centro anche dell'immaginario di quella regione e che comunque viene presidiato. Ho alcuni dati sotto gli occhi, dati di periodi di circa 7 mesi, con oltre 600.000 persone arrestate dalla polizia di confine statunitense per aver tentato di entrare illegalmente il confine. Insomma, l'immagine non è certo di una frontiera aperta. No, non è una frontiera aperta, è una frontiera dove succedono delle cose molto bizzarre, perché paradossalmente è molto militarizzata, e quindi ad esempio alcune centinaia di chilometri più a ovest di Ciudad Juárez è stato costruito un muro a Tijuana, ma poi è anche una frontiera che, pur essendo militarizzata, in alcuni punti non può che essere porosa, perché il confine è lungo più di 3.000 chilometri, e quindi si tratta in ogni caso di una frontiera dove tradizionalmente messicani, guatemaltechi, honduregni, salvadoregni traversano con i coyote, o con i pogeros, questi sono i due termini dei trafficanti di uomini che per alcune migliaia di dollari portano questi migranti dall'altra parte della frontiera. Quindi è una frontiera contraddittoria, molto militarizzata, ma dove naturalmente passano uomini e merci. Anche perché questa è la grande strada del nord, e lì a volte, come dire, la geografia detta la storia, ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, del ruolo che svolge il Mediterraneo e il sud dunque della nostra penisola, mi sembra che in qualche modo si evochi qualcosa di molto simile in un contesto diverso. Adesso ci interrompiamo per qualche momento, sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade d'Italia, poi ci ritrasferiamo in Messico e cerchiamo di entrare con Roberto Darin nella realtà di questa città che abbiamo sentito è l'emblema di un problema grave che il Messico ora ha deciso di affrontare con l'aiuto degli Stati Uniti. 30 minuti in cronaca. Ritorniamo a Ciudad Juárez, in Messico, al centro della grande frontiera di oltre 3.000 chilometri tra gli Stati Uniti e il Messico, appunto. E ritorniamo a farlo con Roberto Darin, corrispondente per il Sole 24 Ore dall'America Latina. Roberto, ci stavi raccontando questo luogo, questa città grande, questa città cupa, questa città in cui i cartelli all'ingresso della città invitano a pregare per la città. Nel reportage che hai scritto per il Sole 24 Ore parli di mistica narcos, cosa vuol dire? Bisogna premettere che, come avevamo anticipato prima, questa è una regione che vive di narcotraffico. Ci sono anche le maquiladoras, per carità, va detto, le maquiladoras sono fabbriche di assemblaggio che lavorano nei settori più diversi, esportano prodotti finiti generalmente verso gli Stati Uniti, quindi c'è anche un'economia sana, ci sono anche delle persone normali che lavorano, delle famiglie, questo è chiaro, però il grande sviluppo di questa città negli ultimi anni è prevalentemente dovuto al business dei narcotrafficanti. Naturalmente quando parliamo di mistica narcos, andiamo a delineare un fenomeno che travalica il business vero e proprio e affonda le radici in ragioni anche di tipo culturale, persino religioso. Culturale perché alla fine è entrato il narcotraffico nella società come un fatto negabile e in qualche caso incontrastabile. La mistica perché persino non solo da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista religioso ci sono dei riferimenti, ad esempio c'è questa Santa Muerte che viene che è un teschio costruito su un personaggio femminile e viene venerato dai narcos e da alcune famiglie vicine ai narcos, e questo viene accettato come un tributo alla fede, non avviene in nessun'altra parte al mondo, naturalmente la chiesa messicana prende le distanze, però ecco, ci sono dei fenomeni che ormai sono rilevabili non solo a livello di business del narcotraffico, ma che sono diventati fenomeni culturali e fenomeni in qualche caso appunto religiosi, quindi accade qualche cosa, c'è una sorta di accettazione di un fenomeno che è diventato naturalmente inquietante da tutti i punti di vista, perché le teste mozzate dei narcos che si combattono e si contendono il territorio sono un'immagine quotidiana nei giornali di Ciudad Juárez. Questo naturalmente ha superato ogni limite di tolleranza anche tra la popolazione. Ciò detto, ci sono ormai delle, come dire, adesso si è andati sopra il livello di guardia, però il narcotraffico è accettato sia a livello culturale sia persino a livello spirituale. Ecco, ci sono come in ogni storia di criminalità, anche dei campioni. Tu ne citi alcuni, uno che mi ha colpito è un certo Amado Carrillo. Sì, Amado Carrillo era uno dei leader messi in evidenza per un gesto che è diventato poi eclatante, perché si è presentato al commissariato della polizia alcuni anni fa per annunciare il suo ritiro dal narcotraffico. Bene, disse, io ora sono stanco, per la verità non aveva neppure 50 anni, però aveva iniziato da giovane. e quindi chiese al commissario di polizia di interrompere le ostilità e propose un patto di non belligeranza. Disse: bene, io d'ora in avanti non mi occuperò più di narcotraffico, mi dovrò semplicemente godere le mie ricchezze, era miliardario naturalmente. L'offerta non fu accettata dal commissariato di polizia, però l'aspetto esilarante e inquietante è che lui arrivò a proporre questa soluzione: quindi io vado in pensione, voi lasciatemi stare, non commercerò più, però patteggiamo una sorta di non belligeranza. Ecco, poi, questo perché naturalmente all'interno di una società come con fenomeni che sono chiaramente di carattere mafioso, il narcotraffico diventa una forma di vita e dunque può essere percepito come un mestiere come un altro. Esattamente, ecco qua, questo a livello culturale ormai è percepito come un mestiere come un altro. Uno dei leader del narcotraffico si può presentare al commissariato di polizia per dire: bene, ora basta, troviamo una soluzione. Non va dimenticato infatti che una delle ragioni che sono alla base della sconfitta del sistema di polizia in Messico è la corruzione e l'inefficacia del settore giudiziario, quindi l'impunità che viene garantita alla maggior parte dei narcos, e quindi una sorta di sistema giudiziario fallito, e questo è quello che in qualche modo, in misura ovviamente minore, si registra anche in alcune regioni italiane con la mafia e l'andrangheta, tanto che spesso i giornali e gli studiosi messicani del fenomeno fanno delle associazioni e dei paragoni tra queste due situazioni. Ecco, se il narcotrafficante, se Amado Carrillo si può permettere di tentare di andare dalla polizia per proporre una tregua, un pensionamento, dall'altra parte chi combatte il narcotraffico non ha questa fortuna. Ci sono anche in questo caso dei campioni, dei protagonisti. Enrico Torres è uno di questi. Sì, Enrico Torres è un signore che lavora 7 giorni alla settimana, che ci ha ricevuto un sabato pomeriggio nella sua a casa sua, che sono blindate le stanze tra una e l'altra, le vie di comunicazione, i corridoi all'interno della sua abitazione, e che vive sempre in stato d'allerta, in emergenza, ed è uno dei paladini, dei pilastri della lotta al narcotraffico, naturalmente con qualche vittoria e qualche sconfitta come tutti i super poliziotti. Ci ha raccontato che questa è una storia ormai sempre più insostenibile per il presidente messicano e che la sua giornata negli ultimi mesi è diventata, dopo che la questione del narcotraffico è assurda a emergenza, le sue giornate sono ancora più convulse. Naturalmente ogni giorno per lui si profilano ore complicatissime, deve prevedere dei blitz, deve prevedere dei narcotour nelle zone più difficili, deve prevedere dei continui presidi lungo la città, e non a caso continuano a scorazzare dei pick-up, delle jeep che ospitano 4 o 5 poliziotti che imbracciano fucili e mitragliatrici, naturalmente tutti a volto coperto da un passamontagna, quindi è uno scenario di guerra. Tutto questo è stato impostato e organizzato da lui, perché alla fine del 2008 e all'inizio, i primi due mesi del 2009, l'ondata di violenza è diventata incontenibile, quindi proprio sulle sue spalle, di Enrique Torres, super poliziotto, è caduta la responsabilità di coordinare non solo i poliziotti ma anche l'esercito, quindi sono arrivati anche 15.000 soldati che stanno presidiando questa città dove è in corso una vera e propria guerra. Dall'esito incerto, a quanto pare. Dall'esito naturalmente incerto. Ecco, in conclusione, e ringrazio Roberto Darini per essere stato con noi e raccontarci questo suo viaggio lungo la frontiera e lungo questa città molto particolare, in che modo, in che tempi a tuo avviso questo accordo, questo impegno assunto dagli Stati Uniti, da Barack Obama, può favorire e iniziare a cambiare le cose? Guarda, difficilissimo rispondere a questa domanda, semplicemente perché il problema principale, forse oltre a quello della domanda di droga che negli Stati Uniti non ha subito rallentamenti, è quello dei punti vendita di armi. E negli Stati Uniti ci sono 80.000 punti vendita, solo a Houston, che è poco al di là del confine, ci sono 1.500 punti vendita dove si possono acquistare fucili AK-47 o qualsiasi altro tipo di arma. E tu parli legalmente? Legalmente, certo. E il 90% delle armi acquistate dai cartelli della droga è comperato negli Stati Uniti. Ora, Obama ha detto, si è impegnato ad affrontare anche questo tema, ma va incontro a un problema enorme, che è quello della lobby dei produttori di armi. Una lobby molto forte, lo sappiamo. Si è rafforzata durante i mandati di Bush. Quindi che non vuole recedere, anche perché sostiene che i narcotrafficanti le armi le potrebbero acquistare altrove. E quindi non è questo il problema. Quindi questo è il capitolo più importante, bisognerà capire fin dove potrà arrivare la forza di Obama per cambiare qualcosa. Un altro punto fondamentale che ha sollevato Calderon e su cui Obama dovrà riflettere è quello della legalizzazione della droga, che è una questione di cui si continua a discutere. La legalizzazione in un solo paese, ha detto Calderon, è assurda, perché altrimenti, cioè il Messico, è assurda perché se ne farebbe un paradiso della diffusione della droga. Invece la questione potrebbe essere solo affrontata congiuntamente anche dagli Stati Uniti, ma questa non credo che sia una via facile, non credo che si arriverà a un accordo sulla legalizzazione. Quindi diciamo l'unico punto su cui si potrà lavorare, pur con molte difficoltà, sarà quello degli 80.000 punti vendita legali di armi che fanno per i narcotrafficanti messicani paradiso terrestre. Ecco, guardano gli Stati Uniti come un punto facilissimo dove poter acquistare merci. Tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie a Roberto Darin, siamo andati un po' lunghi e me ne scuso. Grazie dunque a Roberto Darin. Armi e droga, un connubio, un matrimonio di interesse molto forti ed efficiente. Oggi abbiamo raccontato appunto la frontiera calda dei narcos. Vi ricordo che questo, come tutti i programmi di Radio 24, potete riascoltarli sul sito radio24.it. Io ringrazio in regia Peter Bescapè, auguro a tutti voi un ottimo fine settimana.